Thank you. terra. Sono in silenzio. Perdendo l'esiste. Chiudo gli occhi sperando di vedere il mondo. E di vedere ancora quella bellezza. We'll be right back. c'è un uccello che emette suoni meravigliosi, che echeggiano nella parte ancora buia della città. L'oscurità sta lasciando la terra. Un'apparente quiete domina la città spenta, per poi uscire allo scoperto, guidata dalla civiltà. Ho perso il fine ultimo dell'esistenza. L'ho resto di una storia senza trama. Solo in un viaggio di pagine sane e di idee ormai abbandonate al nulla. Fogli strappati circondano la stanza. Le parole struggenti mi sussurrano i pensieri. Thank you. passato già una settimana. Dovrei essere passato anch'io. È passato più di un anno.